cazzo se sono pronto. Yeah. Volevo essere una, volevo essere una star. Volevo essere una, volevo essere una, volevo essere una star. E tu no. Volevo essere una, volevo essere una, volevo essere una star. E tu no. Volevo essere una, volevo essere una, volevo essere una star. L'ho capito che non è così. Io che ci sbavavo dietro questi film, yeah. Tu che ti compravi i loro pantaloni, ma le tasche non avevano i loro milioni. Che ne ho visto e rivisto di chiacchieroni, mi han girato e rigirato con i paroloni. Mi ha parlato e straparlato di goderla in fretta, ma ormai mi sto seppiando in una cameretta. Non c'è chi aspetta, o c'è il denaro, o il conto in banca e l'affare è fatto. Non c'è chi conta se sei bravo, ma se papi fa il primario te lo paga il contratto. Non è la tua vita che ti suona strana, è solo che TV suona una vita strana. Perché vedi ancora gente che si veste strana, che ti suona che la vita è solo una puttana. Non gangsta baby, e baby gangsta. Ho un sacco di problemi a complicarmi la testa, ho più debiti che meriti in un mondo di merda. È quasi la metà son per comprarmi l'erba. Il mio sogno nel cassetto è un sogno invano. Resto coricato dentro il mio divano, perché ho visto che su ciò in cui credevamo gira mafia del denaro come Provenzano. I'm not mafioso come Sinatra, vado a ritroso come Biafra. Miracoloso come il Viagra, sono contagioso come la Viaria. E quindi ho lavoro, tocca fare il push, mettere mattoni oppure chiudere buste. Cerchi risposte, di certo non qua, perché questa città non esiste una star. Farmi la tua car, la tua lei dentro il club, conquistarmi la città. Volevo essere una star, salvare barili di champagne, fare fuoco come ognuno dei miei plan. Volevo essere una star. Ho chiesto al produttore che puoi farmi un beat, lo metto come un pezzo dentro il mio LP. E questo che tratta di retterà nessuno, mi dice che non può se io non sono qualcuno. Ho chiesto pure in giro che puoi fare un feat, l'ho chiesto anche a quel frangio di Daniele e Vit. Poi mi risponde il cugino che mi dice che sto cretino, non c'è cazzo con dei poveri cugini. Questa è blatta fermi lì, mica merda gangsta. Non parlarmi dei tuoi film, vado fuori di testa. Qui non è una sitcom, qui la gente ti pesta. E non pago la cauzione se la gente mi arresta. Qui non basta pregare il signore, non è una questione d'onore. Se la gente che contro, ho capito che in fondo che mondo è mondo, spaccia solo parole. Io vivendo l'amore, formato famiglia, yeah. Io very good come Sensi Miglia. E se c'è qualche stronzo che mi assomiglia, è soltanto perché cerca di rubarmi la pilla. È un rock superstar pure senza un euro, e tu per puro caso mi pensavi alle neuro. In mezzo ad altri pazzi senza niente di meglio, ma la gente sopra i palchi grida ehi yo, ehi yo. Sto sveglio, sveglio, non mangi i vostri additivi. Non sto con quelli che al peggio al massimo pippano i detersivi. Non so se Cugli ci arrivi, ma messi qua dove stiamo. Restiamo in pasta e conigli, un cazzo nel culo e ciò ci vedi. Farmi la tua car, la tua lei dentro il club, conquistarmi la città. Volevo essere una star, stappare barili di champagne, fare fuoco come ognuno dei miei blan. Volevo essere una star, farmi la tua car, la tua lei dentro il club, conquistarmi la città. Volevo essere una star, stappare barili di champagne, fare fuoco come ognuno dei miei blan. Volevo essere una star.